Una vocazione tardiva, 1805-1809. Giovanni Maria Vianney a 20 anni. Per la seconda volta Giovanni Maria Vianney lasciò i campi di Dardigli e la casa paterna. Dopo la sua prima comunione era molto cresciuto, ma i contadini del Point du Jour ritrovarono nel giovane ventenne l'amabile e candido fanciullo di un tempo. Senza essere ancora perfetto, il futuro santo mostrò subito a quale grado di virtù sarebbe potuto salire. A tavola si accontentò quasi sempre della minestra, senza prendere altro, anche se lo si pregava, quantunque in quell'età dello sviluppo l'appetito avesse esigenze imperiose. Giovanni Maria, che aveva la sua idea, imponendosi questa penitenza, la volle ancora più aspra. Per attirare sui suoi studi le benedizioni celesti, chiese alla zia di scodellargli sempre la minestra prima di mettervi il burro. Sia per dimenticanza che per maggiore comodità, Margherita Humbert lo servì qualche volta come tutti gli altri membri della famiglia. Ma il nipote, che non aveva ancora imparato a dominare del tutto la sua naturale vivacità, mostrava allora, trangugiando la sua scodella di minestra, un volto contrariato, come se ogni cucchiaiata lo dovesse soffocare. Verrà un giorno in cui, trasformato più a fondo dalla grazia, conserverà il suo sorriso in circostanze ben più disagevoli. Sempre molto amico dei poveri, gli capitò di condurre a dormire alla cascina degli Humbert tutti i mendicanti incontrati per strada. Qualche volta ne riempì la casa. Un giorno, che si recava a far visita alla sua famiglia a Dardigli, cedette a un povero le scarpe nuove che suo padre gli aveva acquistato. Se ne era creduto il proprietario legittimo, avendole pagate con il proprio lavoro. Ma fu assai sgridato quando dovette presentarsi a pieni di nudi a casa. Ma questo non riuscì a correggerlo. Un altro giorno incontrò per la strada una povera donna circondata da bambini. Mosso da pietà, le diede 7 franchi, che erano tutto quello che aveva con sé. Il vecchio tra i ragazzi. I suoi studi di seminarista erano quindi iniziati. Ormai passava il mattino e la sera nella canonica di Écouly. Entrando e raccolto dal dolce sorriso della signorina Margherita Ballet, che sotto l'abito secolare aveva conservato l'anima e le maniere di suor Maria Giuseppa Dorotea. Suo fratello Carlo passava per buon teologo. A più riprese aveva rifiutato la cattedra di morale del seminario maggiore di Lione. I suoi modi erano austeri, la voce ferma, ma lo sguardo rimaneva dolce e benevolo. Giovanni Maria Vianney si sentì subito a suo agio vicino a lui. Ma purtroppo la grammatica latina gli parve più ostica. Il giovane aveva una conversazione fine e vivace, era un piacere udirlo parlare, ma nelle materie di studio si addentrava con molta difficoltà e quando si sentiva una penna tra le dita diventava lento e imbarazzato. Non ne aveva colpa perché la sua intelligenza era rimasta arrugginita per troppi anni. I primi rudimenti sono soprattutto questione di memoria. Ora, in Giovanni Maria, la memoria si era offuscata al tempo in cui maneggiava la sua vanga tanto lucente. Aveva ormai dimenticato le poche nozioni grammaticali imparate alla scuola del cittadino di Dumas e non si affronta la sintassi latina senza conoscere quella della propria lingua. Impresa impossibile. Il piccolo Deschamps, i piccoli Lorà, fanciulli di buona formazione, essi che si destreggiavano facilmente tra declinazioni e coniugazioni, ridevano di gusto, sentendo il loro vecchio compagno compitare quello che essi avevano appreso come per gioco. Don Ballei, da parte sua, non aveva molta voglia di ridere. Quel giovanotto dal giudizio maturo, dalla pietà profonda, si sarebbe scoraggiato al primo ostacolo. Fatica terribile, più dura di quella dei campi. Giunta la sera, lo scolaro ventenne, al chiaro di una povera lampada, si curvava ostinatamente sui libri. Quindi, in una preghiera veemente, supplicava lo Spirito Santo di cacciargli in zucca le parole. Ma il mattino dopo doveva accorgersi che le parole se ne erano sfuggite ancora ribelli. Si esercitava in versioni puerili sulle Histoire Choisie de l'Ancien Testament, il manuale classico dei principianti di quell'epoca. Il padre Deschamps ha raccontato come allora aiutava il suo vecchio compagno di studi a cercare le parole sul vocabolario e a tradurle convenientemente. Anche uno dei Lorà, Mattia, il meglio dotato forse degli alunni di Don Balley, faceva questo piacere a Giovanni Maria. Ma il ragazzo era un tipo nervoso dalla mano svelta. Un giorno, stanco che il vecchio non capisse nulla, gli diede due schiaffi in presenza degli altri. L'offeso, che era per temperamento anch'egli un violento, si mise in ginocchio innanzi a quel ragazzo di 12 anni che lo aveva percosso e umilmente gli chiese perdono. Mattia nascondeva un cuore d'oro. Subito pentito e toccato fino alle lacrime, si gettò fra le braccia di Giovanni Maria Vianney. Così fu sigillata una profonda amicizia. Mattia Lorà, divenuto missionario negli Stati Uniti e quindi vescovo di Dubuque, non dimenticherà mai i particolari di questo fatto. Crisi di vocazione. Per molti mesi i progressi di Giovanni Maria furono quasi nulli, eppure ce la metteva tutta con una tenacia impressionante, pregava e si mortificava. Troppo poco nutrito, non tardarono a manifestarsi sul suo viso i segni dell'indebolimento. La zia Humbert, che non poteva aiutarlo, si credette in dovere di interessarne Don Balley. Il parroco di Ecuglia, assai austero lui stesso, non ci aveva fatto troppo caso. Era, come candidamente è stato detto, un pezzo d'uomo che per sostenersi avrebbe dovuto mangiare più di un altro e che invece digiunava rigorosamente. «Giovanotto», disse infine a Giovanni Maria, «sta bene pregare e far penitenza, ma bisogna anche mangiare e non rovinarsi la salute». Era vicina a una crisi spirituale che poteva essere fatale. Decisamente l'impresa era troppo ardua. La tentazione si abbatté come l'uragano sull'anima spossata. Il povero studente fu preso dal disgusto per tutto quello che aveva sognato. Rivide con il pensiero la casa e i campi paterni, i lavori della campagna in cui se la cavava molto più facilmente. «Voglio tornarmene a casa», disse tristemente a Don Balley, non meno addolorato di lui. Con occhio penetrante, il vecchio maestro aveva sondato la pena di quel caro allievo, ma sapendo che tesoro gli fosse stato affidato, gli disse: «Dove vuoi andare, ragazzo mio? Tu vai in cerca di dolori. Sai bene che tuo padre non chiede altro che tenerti a casa. Se ti vede così sfiduciato, è finita. Allora addio bei progetti, Giovanni Maria. Addio sacerdozio. Addio anime». «Addio anime? No. Questo no, Dio non l'avrebbe permesso. Un tale ricordo, il sacerdozio, l'altare, la salvezza dei peccatori, la messa abbondante e la mancanza di mietitori, scongiurò la dolorosa crisi. Il demone dello scoraggiamento cessò di molestare quell'anima pura, ma la sua memoria era quel che era. Secondo la sua stessa confessione, non poteva cacciare nulla nella sua povera testa. Cosciente del pericolo, per scuotere il cielo e affrettarne gli aiuti, ricorse a un espediente eroico. Fece voto di recarsi a piedi, mendicando il pane nell'andata e nel ritorno, fino al santuario di La Louvèche, presso la tomba di San Francesco Regis, l'apostolo del Velay e del Vivarais. Un voto difficile. Si era nel 1806, durante la bella stagione. Da Ecuglia al villaggio di La Louvèche c'è un buon centinaio di chilometri. Nonostante la sua magrezza di asceta, Giovanni Maria Vianney rimaneva vivace e ben piantato. Tutto preso dal suo progetto, non pensò che la sua robustezza poteva causargli nel cammino incresciosi incidenti. Dopo aver fatto il mattino la comunione e ascoltato la Santa Messa, se ne partì con in mano il bastone e con nell'altra la corona del rosario. Camminò a lungo. La fame e la sete si fecero sentire e fu costretto a cedere. Il nostro viaggiatore si fermò alla soglia di una casa. Che voleva quel vagabondo? Con quell'aria da santarello non tramava qualche brutto colpo? Del resto, che frottole inverosimili. Gli studi? San Francesco Regis? Chi era tanto sciocco da credergli? Non si trattava, invece, sotto le apparenze di un tranquillo pellegrino, di un soldato disertore, di un renitente in cammino per le frontiere della Savoia o del Piemonte. Così il giovane viandante fu trattato da fannullone e respinto da tutte le porte. Anzi, lo si minacciò di denunciarlo ai gendarmi. Avrebbe potuto procurarsi il vitto sufficiente perché per ogni evenienza aveva portato con sé un po' di denaro, ma fedele al suo voto non volle acquistare nulla. Proseguì dunque il cammino mangiando erbe e bevendo acqua di fonte, ma a forza di stanchezza fu preso da uno stordimento. Morso dalla fame, osò entrare in una casa. C'era una donna che egli sperava che gli avrebbe dato qualcosa da mangiare. La donna, che stava svolgendo un gomitolo, presentò allo sconosciuto un filo e gli domandò di tirarlo fin fuori della casa. Egli, immaginandosi che si trattasse di farle un piccolo piacere, si mise a tirare il filo, ma quando fu fuori, quella gli chiuse la porta in faccia. Non poté trovare rifugio presso nessuno la notte seguente e dovette perciò passarla all'aperto. Buon per lui che, proseguendo, incontrò cuori meno duri. Qualche tozzo di pane ricevuto in elemosina gli permise di giungere per strade quasi impraticabili al santuario celebre di La Louvèche, posto a 1100 metri di altitudine, tra le montagne dell'Haute-Vivarais. Vi arrivò stremato ma felice. Appena entrato nel villaggio, il primo pensiero di Giovanni Maria Vianney fu quello di correre ad inginocchiarsi davanti alla cassa del santo per dirgli il motivo del suo duro viaggio. Ottenere la grazia di imparare abbastanza latino per poter fare teologia. Questa grazia l'ottenne, ma misurata, appena sufficiente. Dio, che ha i suoi disegni su ogni anima, provando la fede del suo servitore, voleva agguerrirlo per più eroici combattimenti. Il pio pellegrino venerò i luoghi resi illustri dalla presenza di San Francesco Regis. Percorse in preghiera la vecchia chiesa dalla volta a cassettoni, nella quale l'apostolo di Vivarais, quantunque divorato dalla febbre, tenne una missione nel Natale del 1640, tanto più zelante per la salute dei peccatori in quanto si sentiva vicino a morire. Il 26 dicembre, divorato dalla febbre, l'intrepido apostolo, che aveva confessato e predicato dal mattino fino alle 2 del pomeriggio, aveva detto la messa e quindi si era posto di nuovo ad ascoltare le confessioni sotto una finestra senza vetri. Infine aveva perso i sensi. Trasportato in canonica vicino a un buon fuoco, riprese i sensi e ritornò a confessare ancora. Una tisi galoppante lo portò via verso mezzanotte il 31 dicembre. Moriva a 43 anni. Quali esempi, quali incoraggiamenti per Giovanni Maria Vianney. Egli si penetrò di quelle lezioni percorrendo la venerabile chiesa, l'antico presbiterio, senza sospettare certo che un giorno si sarebbe venuti in pellegrinaggio alla sua canonica per ricevervi simili insegnamenti. Alla Louvèche si confessò e fece la comunione. Al padre gesuita che ricevette le sue confidenze raccontò quanto il voto di mendicare lungo il cammino gli avesse reso penoso il viaggio. Poiché si trattava di cosa promessa a Dio, doveva affrontare anche nel ritorno gli stessi rischi e gli stessi affronti? Il confessore non lo ritenne. Gli commutò il voto a patto che nel ritorno, anziché ricevere l'elemosina, la facesse. Se ne tornò a piedi, ma lungo il tragitto si pagò il vitto e l'alloggio. Fu generoso con chiunque gli chiedesse l'elemosina. Prova che non aveva avuto l'apparenza di un mendicante e questa nuova maniera di santificare il viaggio gli fu tanto gradita che più tardi diceva: «Ho sperimentato la verità della parola della scrittura. Val più dare che ricevere». E aggiungeva: «Non consiglierei mai a nessuno di fare il voto di mendicare». I disagi di un simile viaggio gli fecero toccare con mano le miserie della povertà senza tetto e lo resero ancor più generoso e compassionevole verso i poveri mendicanti. L'età della coscrizione. A Écouline, come possiamo bene immaginare, Don Balley, che da lontano si era unito alle preghiere del suo caro Vianney, l'accolse a braccia aperte. A partire da quell'epoca il giovane fece sufficienti progressi, così da non più scoraggiarsi. I libri di studio non gli diedero più la nausea. Il lavoro, meno arido, divenne più fruttuoso. Con grande conforto vide la strada del sacerdozio spianarsi così dinanzi a lui. Don Balleì da allora guardò senza troppo timore al futuro. Ormai la più dolce speranza del vecchio maestro era quella di poter un giorno assistere il suo allievo all'altare del Signore. Quell'alunno, frattanto, era giunto all'età della coscrizione. La classe del 1807, la sua, era stata in gran parte arruolata innanzitempo. Nel novembre 1806, dopo la sanguinosa campagna di Jena, Napoleone I aveva dovuto prelevare 80.000 uomini tra le giovani reclute. Ma Giovanni Maria Vianney, avendo iniziato gli studi per diventare sacerdote e sacerdote della diocesi di Lione, era perciò stesso dispensato dal servizio militare. Il cardinale Fesch, che era allora nelle grazie dell'imperatore, suo nipote, aveva ottenuto da lui che tutti gli studenti ecclesiastici iscritti nelle liste ufficiali della sua arcidiocesi fossero esentati dal servizio militare, come quelli che avevano già ricevuto gli ordini sacri. Perciò il parroco di Aiguilly pregò il reverendo Don Grobot, suo antico confratello d'apostolato durante la rivoluzione, divenuto ora segretario del cardinale, di iscrivere lo studente Vianney fra gli aspiranti al sacerdozio. La qualcosa fu fatta. Cresima di Giovanni Maria Battista. Durante la quaresima del 1807, sempre ad Aiguilly, Giovanni Maria ricevette il sacramento della cresima. Stava per compiere i 21 anni. Il cardinale Fesch, prelato molto zelante, ma sovraccarico di lavoro, la sua diocesi comprendeva 3 dipartimenti, il Rhône, l'Aisne e la Loire, aveva potuto fare una sola visita pastorale, quella del 1803. Questa seconda visita era quindi un avvenimento considerevole. Una lettera pastorale in data 22 gennaio 1807 ne dava l'annuncio solenne. L'inverno era rigido, nonostante le intemperie, dice un rapporto del tempo, dopo che Monsignore ebbe visitato le parrocchie di Lione, percorse anche quelle della periferia e dei dintorni della città. In tal modo la parrocchia di Aiguilly accolse tra le prime il coraggioso prelato. Sua Eminenza, il cardinale arcivescovo di Lione, come dice ancora lo stesso rapporto, continua la sua vita pastorale. In un posto in cui ci siamo recati, Sua Eminenza distribuiva ancora la comunione alle 3:30 del pomeriggio e seguitò a cresimare fino alle 5. Il numero degli uomini che fanno la Santa Comunione uguaglia quello delle donne, e tutti la fanno con un grande spirito di fede e di raccoglimento. Quel giorno faceva assai freddo e nevicava fitto. Molte parrocchie avevano camminato 3 o 4 ore per recarsi al capoluogo in cui si amministrava la cresima, e poiché la chiesa era troppo piccola per accogliere tutti, la maggior parte hanno atteso fuori al freddo e nella neve senza lamentarsi. Un gran numero di essi, specialmente i giovani, andavano incontro a Sua Eminenza quasi per una lega di strada, e quando scorgevano da lontano le vetture si mettevano in ginocchio e attendevano che Sua Eminenza, passando, desse loro la sua benedizione. Il numero dei comunicanti è ordinariamente di 2.000 al giorno, mentre le persone che ricevono la confermazione sono circa 3.000. Il modo curioso e pratico con cui il cardinale Fesch amministrava l'Eucaristia e la confermazione merita d'essere citato. Aveva fatto confezionare un vaso di forma allungata, d'argento dorato, che poteva contenere più di 3.000 particole. Con questo riempiva la pisside con cui percorreva la chiesa. Comunicanti o confermandi erano schierati lungo la navata e il loro numero qualche volta fu così numeroso che uscivano dalla chiesa sotto il portico e fin sulla piazza. Alla fine della messa, Sua Eminenza, seduta stante, segnava col sacro crisma masse di fedeli. Il numero dei cresimati del 1807 è valutato a non meno di 30.000 e tra di essi c'erano molti giovanotti, uomini fatti, vecchi rivoluzionari tornati alla religione dei padri. Giovanni Maria Vianney fu cresimato lo stesso giorno della sorella Margherita, che stava per compiere i 20 anni. Conoscendo già la sua delicata pietà, ce lo immaginiamo facilmente raccolto, perduto in Dio. È molto probabile che egli non si recasse incontro al cardinale, ma che sia rimasto con i suoi compagni di studio presso Don Balley per aiutarlo nei preparativi della festa, per cui sarebbe stato cresimato tra i primi e nella chiesa stessa. La porpora del cardinale, che attirava tanti sguardi, non turbò il suo raccoglimento, come non lo turbò la novità della cerimonia e il brusio che inevitabilmente si alzava dalla folla. L'arcivescovo si fermò dinanzi a lui, lesse un nome sul biglietto che gli veniva presentato e, facendo sulla fronte la santa unzione, pronunciò le parole liturgiche. «Giovanni Battista, io ti segno col segno della croce e ti confermo col crisma della salute nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo». Il giovane Vianney aveva scelto infatti come patrono di cresima il santo precursore. D'ora innanzi egli firmerà ora Giovanni Maria Battista, ora Giovanni Battista Maria, indifferentemente. Per tutta la vita questo secondo patrono sarà uno dei suoi santi preferiti. Lo Spirito di Dio poté riposarsi in quell'anima giusta come una colomba nel suo nido e alimentarvi i buoni desideri, preparare le meraviglie di grazia che un giorno avrebbero portato quell'adolescente alla gloria degli altari. Per 2 anni Giovanni Maria Battista gustò nel profondo dell'anima una pace ineffabile. Una notizia improvvisa ruppe però quell'azzurro. Nell'autunno del 1809 un agente della gendarmeria portava da Lione alla fattoria di Dardigli un foglio di via al nome di Giovanni Maria Vianney.